con quegli occhi grandi mi guarderai mai solo qualche istante e poi nulla di più. Anche un uomo piange, non so se lo sai. Sopra questo letto ripenserò a noi e se il tempo scorre ci sei sempre tu. Quel profumo sempre non se ne andrà mai, proprio mai, proprio mai. Sento che sei, sento che puoi cambiarmi la vita e non cambiarmi mai. Sento che tu conti di più, sempre più. E allora fermati a guardare le stelle, mettiti a contarne una ad una, mettiti a sedere, fammi rimanere seduto accanto a te che sei unica e lo sai. E quello sguardo che ogni tanto mi fai è unico e lo sai. Perché ci ripenserò, ogni tanto scorre anche un brivido, restami accanto ogni giorno che poi ci sei. Quando ti ho incontrata quella notte in cui tutti lì a parlare, io ciao come va, una frase fatta, risposta fredda. Anche se col tempo, ripensando a me, ti sentivi il cuore che viaggia e che va, forse il mio si è acceso solo per te. Ricordi l'emozione di me e di te, stretti in un giubbotto che è il doppio di te, solo un nodo al cuore che si scioglierà. E sentirò che non mi lasci andare, sentirò che mi tieni a galla, sentirò te che passi e vai, che passi e vai, che passi. Sentirò la vita e sentirò che troverò l'uscita, lo sento perché sentirò il respiro, sentirò davvero te. Unica lo sai, e quello sguardo che ogni tanto mi fai, è unico e lo sai. Ci ripenserò, ogni tanto scorre anche un brivido, restami accanto ogni giorno se vuoi, ci sei. E sei unica e lo sai. Restami accanto ogni giorno se vuoi, sei unica e lo sai. Ci ripenserò, ogni tanto scorre anche un brivido, restami accanto ogni giorno.